24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Caro Silvio Berlusconi, leader per noi del centrodestra di ieri, di oggi e di domani, perché Berlusconi ci assicura che camperà 120 anni e noi con lui. Ne mancano circa 43 e quindi noi vogliamo correre ancora con lui tante battaglie elettorali. L'ottimismo di Gianfranco Rotondi. Mancano quanti anni a Silvio Berlusconi? 43 più o meno, e dunque leader di ieri, oggi e domani. Silvio Berlusconi fino a 120 anni. Queste nelle parole di Rotondi. Eccoci qui a 24 mattino alle 6.35 minuti, c'è Laura Faggini in redazione che zampetta dalle 5.30 più o meno, e il nostro alpino Peter Bescapè, che lui dalle 4.15 è qua, si sa, col suo bombardino. Siamo tutti pronti? È pronto anche il Parlamento? Sì, può aprire? Benissimo, ecco la nostra saracinesca. Il caffè volentieri a tutti quanti. Va bene, la nostra Nicola è sempre qua, ancora questa. Continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino di un Milan. Va bene, allora voglio subito salutare i miei due primi ospiti con i quali commenteremo i giornali. Intanto ritorna, sono felice, il vice direttore di Libero Massimo De Manzoni. Dopo le vacanze ti abbiamo nuovamente sbrandato, eccoci qua. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Sì, abbastanza. Saluto anche Alessandro Giglioli, lui invece no, è qua ormai, l'abbiamo recuperato da un bel po'. Buongiorno, piovono rane. Buongiorno dal recuperato, buongiorno a tutti. Piovono rane, come vanno? Bene, insomma, bene, compatibilmente con quello che succede in questo paese, ma tutto bene, dai. Non solo rane piovono, oggi, piovono, vabbè, insomma, veniva una battuta un po' che... Lasciamo... Io non ho osato interferire in quello che stavi per dire perché avevo paura. Ecco, diciamo. No, vabbè, allora uno dice bisogna parlare, lo so già, la gente dice ma basta parlare di questa vicenda di Silvio Berlusconi. Oh, ma ragazzi, ma qui oggi alle 20 è stata riaggiornata la giunta e a leggere i giornali. Oh, potrebbe succedere davvero il finimondo, nel senso che Schifani in maniera molto molto sobria, una di quelle dichiarazioni sobrie, ha detto hanno preparato la camera a gas per Silvio Berlusconi. E Massimo De Manzoni, facciamo subito un pronostico. Cade il governo? Cadono le larghe intese? Prima o poi sì, andando avanti così sì. Non so se cadono stasera, però andando avanti così mi sembra una strada inevitabile. Non trovo soluzioni, non le trova nessuno. Quindi mi sembra che sia una forza di inerzia che spinge lì. In realtà molti non lo vorrebbero, ma ci siamo. Ripeto, non so se succede stasera, perché i penultimatum ne abbiamo sentiti se ne può più. Un giorno sì, un giorno no, diciamo. Ecco. Sì. E ieri era il giorno sì, magari oggi diventa di nuovo il giorno no, però dopo il tempo la candela si sta bruciando. Un po' basta. Sì, un paio di giorni fa, qualche giorno fa, avevo letto Filippo Facci su Libero, secondo me straordinario, a dire oh, chiamateci quando avete finito. Questa è un po' la sensazione. Non se ne può più, diciamolo francamente, non se ne può più. Ogni giorno sembra che cada il governo, poi al mattino cade, alla sera traballa, ma sta su. Però insomma, pronostico anche di Alessandro Giglioli. Allora, che succede in questo Alessandro, c'è un increscioso equivoco. Sì. Cioè, la partita che si gioca al Senato non è se cadono al governo, che forse ha una sua rilevanza, come dire, contingente. La partita che si gioca al Senato è se vale o no in questo paese quella frasetta che sta scritta sui tribunali, no? La legge è uguale per tutti. Ah, ecco. È un po' più importante forse, no, della governicchio Letta, sapere se siamo in uno stato di diritto oppure se siamo in una repubblica delle banane. Qui entriamo subito nella polemica politica, eccola qui, allora voglio... È una questione di priorità, secondo me è più importante, ma credo che sia evidente, che sia più importante la partita, se questo è un paese in cui la legge è uguale per tutti, piuttosto che la questione di un governo che comunque, se non cade su questo, cade domani, dopodomani sull'IMU, cade fra tre giorni sull'IVA. Cioè, è un pochino più storica la cosa. No, ma certo, però su questo il sottinteso di Alessandro Giglioli è se va a finire che Berlusconi si salva, non so se lo sottintendo bene, vuol comunque dire che la legge non è uguale per tutti, secondo il tuo punto. Comunque, se vuoi il pronostico, tu che sei milanista, non posso che farti un pronostico storico, no? Sì. Siccome la fanno in notturna, diranno che le luci sono scadenti e chiedono l'annullamento della partita. Ah, battutona come Marsiglia. Battutona come Monsieur Lumière a Marsiglia. Sono stato un po' assertivo, allora ho voluto molto. No, De Manzoni diceva intanto in sottofondo: ma la legge non è uguale per tutti. Che vuol dire? La legge non è uguale per tutti perché è previsto dalla Costituzione che non lo sia, anzi, era previsto dalla Costituzione che non lo fosse ancora un po' di più. Per i parlamentari. È la Costituzione più bella del mondo, l'hanno già stravolta un paio di volte e l'hanno stravolta in un senso che i padri costituenti non volevano evidentemente. Però rimane in piedi ancora quello che si chiama, con un bruttissimo termine, che però si chiama autodichia. Ah, sì, sì. Ed è quella cosa per la quale non si applicano ai parlamentari, o meglio, i parlamentari hanno la facoltà di non applicare a se stessi alcune leggi. Hanno delle leggi, le leggi loro, messe in maniera brutale. Sì, questo è previsto dalla Costituzione, quella del mondo, ripeto, ma poi basta mettere. Ma io non so che Costituzione abbia letto il collega, ma se tu leggi l'articolo, mi pare 68, si dice che in caso di condanne definitive, buona parte o quasi tutte le cosiddette norme di immunità vengono meno. Comunque, sì, però poi insomma c'è la questione giuridica, esatto, perché ci sono pareri pro verità. Li avete letti i pareri pro verità? Tutti. Anche il ricorso a Strasburgo mi sono letto. È vero che Giglioli ha passato delle notti infernali, ha letto il ricorso a Strasburgo. De Manzoni, ti rendi conto? Ha letto i pareri pro veritate nel caso della legge Severino. Una vita distrutta, Giglioli, capisci? Questa è la vera. Cioè le sue perversioni, ma questa è la vera vittoria di Berlusconi, aver convinto Giglioli a leggere i pareri pro veritate. È il mio mestiere. Allora, intanto ieri di straforo, mentre facevo altre cose, perché sono sempre così, due bambini, c'è la cena, guardavo Lilli Gruber, è tornato 8:30. A un certo punto vedevo Travaglio che battagliava con la senatrice Casellati del PDL, che fa parte della giunta, e è finita così. Ho detto, oddio, è iniziato il solito giro di giostra. Sentite. No, Lilli, io ti ringrazio, ma io chiudo qui, perché è assolutamente impossibile in un collegamento, senza riuscire a finire una sola frase, le puttanate che dice questa signora. Quindi vada avanti da sola con le sue puttanate. Oltretutto è una persona senatrice, per favore. Vado via io perché una persona che si permette di dire questo, secondo me è bene che se ne vada. O va via lui. Io vado via io. Ecco, allora, prima perché, scusa, che uno di voi due se ne vada, vi posso far vedere il punto di Paolo Pagliaro. No, ma io voglio dire che senatrice, credo che il rispetto qui va garantito per tutti. Il presupposto di ogni discussione è intollerabile, è garantito, la mancanza di rispetto di quest'uomo. Tutti. Allora, alla fine vado via io, vado via lui o vado via uno. Il Lilli Gruber ha detto: vabbè, uno se ne vada via, pubblicità. De Manzoni, sono rimasti tutti e due. È iniziato il solito teatrino delle trasmissioni. Così lontane da un paese che irrimediabilmente affonda nel frattempo, a guardarle. Massimo, che ci aspetta? Un'altra stagione di queste cose qui? Anche questo basta, non se ne può più. Purtroppo sì, ma anche lì è la questione di cui parlavamo prima. Certo, ci sono le questioni di principio e poi ci sono le questioni sostanziali. Se abbiamo bisogno di un governo, e in questo momento l'unico governo possibile è un governo di coalizione, e ci vuole il compromesso, e questo è evidentissimo. Se invece non riteniamo di aver bisogno di questo, si può buttare per aria tutto. Però poi dopo non è che ci possiamo lamentare: ah, però adesso dobbiamo fare le elezioni, adesso lo spread, adesso siamo di nuovo con le pezze al culo, siamo messi peggio di prima. Già le pezze al culo ce le abbiamo. È una questione di priorità, la politica è l'arte del possibile, non è l'arte del, anzi, qualcuno dice dell'impossibile. È una questione politica, se la riduciamo a una questione giuridica è finita. Ma è chiaro che è politica. Se è giuridica non si capisce di cosa stiamo parlando. Quasi due mesi. Ma è chiaro che è politica. Oggi sui giornali, non so, io qua al Secolo XIX, ora tutti all'attacco, non mi crocefiggeranno queste Berlusconi. Su Libero c'è. Deve essere politica, non può essere un tecnicismo giuridico. Ma nel senso, se uno dice, come scrivete voi su Libero, ora Berlusconi si vuole vendicare, secondo Repubblica la sensazione sua è allora muoia Sansone con tutti i filistei, cioè volete farmi fuori e io faccio fuori le larghe intese. Questo è un po', tra virgolette, qualcuno lo chiama ricatto, qualcuno lo chiama, insomma, quello che è, l'alleanza politica si basa su questo. Che dobbiamo aggiungere? Cioè, in nome di questo, Massimo, bisogna, secondo alcuni, sospendere o trovare l'escamotage per garantire, com'è che la chiamano, l'agibilità politica di Berlusconi? Sì, nello specifico stanno cercando di comprare un po' di tempo, cosa che è successo in passato, cioè di non precipitare la situazione. Questo si chiede, non è che si chiede. Il PDL in questo momento sta chiedendo di non affrettare i tempi in modo da aspettare magari un parere della Corte Costituzionale, un parere da Strasburgo, cose che è evidente che sono fatte per prendere un po', Sì, di certo, ma anche perché di che cosa dici tu? No, ma infatti, ma anche perché la sentenza, piaccia o no, cioè può fare schifo, si può giudicarla come una sentenza che uno dice è politicizzata, ma quella c'è, allora se no buttiamo la magistratura a mare perché non valgono le sentenze, qualunque esse siano, e basta, però torniamo alla giungla, che dobbiamo fare? Andiamo alle informazioni sul traffico, poi rientriamo con Alessandro Giglione e Massimo De Manzoni. 24 mattino. Caro Mira, basta con Bersani, basta con D'Alema, basta con la Bindi, non se ne può più, basta veramente, basta, basta, basta. Non bisogna costruire più armi, bisogna mandare messaggi a chi quattro grandi che fa sempre armi per fare guerra, basta guerra, basta, non bisogna fare armi in Italia che abbiamo le fabbriche di armi. Basta, basta guerre, basta armi, basta. Buongiorno Mila, è davvero rassicurante sapere che Napolitano confida su un condannato in via definitiva per evasione fiscale e che la stessa persona comunque ha subito un processo per prostituzione minorile e che ha avuto rapporti con la mafia. Insomma, se Napolitano confida su questa persona, Pacciani si starà rivoltando nella tomba. L'unico sistema per poter uscire da questa crisi, purtroppo, è un sistema molto grave, è uscire dall'Europa, perché l'Europa non ha la minima intenzione di poter aiutare l'Italia a risollevarsi. Alessandro, tuo tramite volevo chiedere al signor Presidente del Consiglio che ci fanno oltre 4.000 dipendenti a Palazzo Chigi, direttore generale, vice direttore generale, capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, segretario del capo di gabinetto, uscieri, portieri, autisti, che ci fanno? Vorrei girare il mondo e vedere un po' se ci sono palazzi di governo che hanno oltre, non 4.000, 400 dipendenti. Cominciassi da lì a fare la spending review. Ciao, ti saluto. La spending review. Oggi Libero, il vice direttore Massimo De Manzoni con noi, dice che arriva non solo il commissario, forse la task force per la spending review. E chi è sta task force? Chi c'è? Che arriva? I carri armati, De Manzoni? La task force? È una cosa che ha detto il governo. Non lo so, è una cosa che francamente, dopo tutto quello che abbiamo visto, commissari, ministri dedicati ad hoc, non si poteva sentire una cosa come quella che è stata detta. La task force. Fanno anche la task force. Sì. Fanno tutto meno che la spending review. Allora, fatti capire, ecco. Prima di Giglioli, prima di farti un esame, tu che cosa hai studiato all'università? No, cosa hai studiato? Io ho fatto filosofia, poi ho fatto un master di giornalismo. Vabbè, non prima... un master, no, perché in realtà che poi è finito come Giannino, un corso di giornalismo. No, grande Oscar Giannino, lo salutiamo Oscar, grandissimo Oscar. No, prima di farti un esame voglio farvi sentire questo. Ma avete sentito che ha combinato il vice ministro nonché sindaco di Salerno De Luca, che è vice ministro dei trasporti, non gli danno le deleghe al governo, ce l'ha allora col ministro Lupi, col suo ministro. Sapete che ha detto? Ha detto, cioè, sapete a chi ha paragonato Lupi? No. Sì. Alla figlia di Fantozzi. Sentitelo, sentite De Luca alla festa del PD a Genova. Per essere chiari, e finisco, il mio interlocutore non è Lupi. Con Lupi noi abbiamo un conflitto aperto sul piano estetico, perché io non sono Brad Pitt, ma lui mi pare che somigli alla figlia di Fantozzi, diciamo così, ma scontro come? È politico. Giglioli, Mariangela, la figlia di Fantozzi. Guarda, Alessandro, che questa somiglianza di Lupi con la figlia di Fantozzi, se posso dirlo. C'è. No, sono almeno 3 o 4 da quando Lupi è passato dai ruoli locali di Milano a ruoli nazionali, che sul web viene... Ho capito, ma è il vice ministro al suo ministro. Volevo appunto dire questo. Purtroppo fa parte, e lo dico a tutti... Lo dico quindi anche a tutti gli amici della sinistra o della fu sinistra italiana, cioè fa parte della decadenza veramente peggiore di questo paese, cioè l'utilizzo continuo da parte di tutti, a destra, a sinistra, sì, delle prese in giro, no? Dell'aspetto fisico delle persone. Allora, io che per esempio personalmente del testo Brunetta mi vanto, se posso, da anni di scrivere le cose peggiori di Brunetta senza aver mai fatto alcun riferimento alla sua statura. Ecco, io vorrei che questa cosa la chiudessimo qua. Cioè, basta. Ma tra l'altro c'è... Da Libero a Travaglio, che usano la stessa... Chiedo scusa al collega Libero, però che usano la stessa logica, quella dell'aspetto fisico, per distruggere l'avversario politico. Se l'avversario politico è carente dal punto di vista etico, politico, ideale, eccetera, lo si batte su quello, non lo si batte su... Massimo, vabbè, ma questa è stata... Respingo l'accusa. E la stessa cosa vale per lui. Livello di Travaglio, su quale... Sì, è certo, che anche tu, Giglioli, se mi portassi paragoni De Manzoni a Travaglio, De Manzoni si sente un attimo... Ma io non ho paragone nessuno. No, ma vorrei dei esempi che il collega non è in grado di portare. Ma detto questo, sì, sono d'accordo che c'è un abuso ma addirittura l'uso che sarebbe da bandire, proprio non si capisce dove andiamo a parare. Tra l'altro De Luca compie un doppio errore, nel senso che, a parte questo errore che è estetico, come dice lui, ma ne compie un altro, perché in base al fatto che Lupi non gli ha dato le deleghe, lui si tiene un doppio incarico, e lo giustifica proprio col fatto che non ha le deleghe. Esatto, da sindaco e vicemista. Comunque, insomma, questo paragone così. Vabbè, devo farvi un test finale, allora l'ho promesso a Giglioli. Allora, Giglioli, quale dei seguenti termini non indica, attento, non indica il periodo di un'era geologica? Non indica. Hai queste 5 possibilità: Cretaceo, Triassico, Biassico, Giurassico, Carbonifero. Così a caso direi Biassico. Biassico, ottimo! Puoi passare il test di medicina. Complimenti, potresti puro culo, devo dire. E questo dovresti saperlo. A capo di quale organizzazione Christine Lagarde ha sostituito Dominique Strauss-Kahn? Vabbè, dai, FAO, l'UNICEF, il Fondo Monetario Internazionale, Medici Senza Frontiere o la Banca Centrale Europea? Questa la sanno anche i ragazzini, perché c'è di mezzo il sesso, quindi Fondo Monetario Internazionale. Cioè, dottore nel senso di medico Alessandro Giglioli, puoi scegliere la specialità? Bene, uccido tutti. Vuoi scegliere la specialità già? No, non lo so. Psichiatria. Benissimo. Psichiatria, psichiatra Giglioli. Erano due dei test dell'esame di medicina, come sempre discusso, oggi ripresa dai giornali. Vi ringrazio

in cui ho avuto la possibilità di spiegare la mia posizione da Genova, a Torino e altri posti, alla fine la cosa si è conclusa con applausi e abbracci, tanto per chiarire la verità. Allora, per quanto riguarda la questione che ora mi ha posto, per quello che ho visto dai giornali, ho letto anch'io i giornali e non ho altre informazioni, ho l'impressione che la vera questione pregiudiziale sia una sola, e cioè se la Giunta possa sollevare eccezioni di incostituzionalità sulla legge Severino o possa ricorrere alla Corte del Lussemburgo. Questa è l'unica, mi pare, vera, per le altre non sono pregiudiziali, ma sono decisioni tutto sommato che riguardano la possibilità di entrare nel merito della questione. Fermo questo, quindi ho l'impressione che oggi si dovrebbe discutere di questo, tenendo conto che la Corte Costituzionale in più occasioni e lo stesso Partito Democratico nel luglio del 2009 decisero che la Giunta poteva sollevare eccezioni di questo tipo. Quindi in base a questi precedenti potrebbe essere sollevato questo… Sì, giustamente il Presidente della Giunta giustamente ha chiesto un'unica discussione, così come prescrive il regolamento del Senato, su tutte le questioni poste dal relatore, però a me pare che la questione vera è una sola, è quella che riguarda la possibilità che la Giunta possa sollevare quelle eccezioni, perché se si decide che non si possono sollevare è chiaro che la questione è chiusa, se invece si decide che si possono sollevare, ripeto, la Corte Costituzionale e molti costituzionalisti hanno deciso in quel senso nel passato, passato anche recente, e a quel punto bisognerebbe poi passare a esaminare le altre due questioni poste dal relatore. Se invece non si sollevasse questa questione e si andasse a votare, dice, come lei dice, la questione è chiusa, è chiaro che dal punto di vista politico, ha sentito le dichiarazioni del Popolo della Libertà, anche Schifani, a questo punto se si vota c'è la crisi di governo. Questo secondo lei è una legittima pressione politica o è un ricatto politico? Io credo che insomma la soluzione giusta è la seconda che le ha detto, perché francamente credo che nessun partito politico, non neanche PDL, credo accetterebbe a parti invertite un ricatto di questo genere. O voi votate come diciamo noi oppure facciamo cadere il governo. È una pressione non accettabile. Nel modo più assoluto. Lei ha detto, insomma, quando mi sono spiegato poi, soprattutto con la base del PD, è finita con applausi, però l'hanno accusata, no, di volere gettare un'ancora di salvezza, di salvataggio politico a Silvio Berlusconi nei giorni scorsi. Ma guarda, io ho fatto un esempio che è stato molto capito da tutti. All'epoca del terrorismo, mi è capitato di fare il magistrato prima, poi dibattere in Parlamento contro il terrorismo, abbiamo fatto una lotta durissima al terrorismo, ma abbiamo rispettato nel processo i diritti di tutti i terroristi, cioè si possono rispettare i diritti pur essendo avversari, anzi lì erano nemici. Qui il senatore Berlusconi è un avversario del PD, ma non per questo non si devono riconoscere, difendere e garantire i suoi diritti, i diritti di difendersi davanti alla Giunta. D'altra parte ho visto che ormai tutti i dirigenti del PD dicono la stessa cosa, quindi non c'è alcun motivo di scandalo, anzi c'è un motivo di garanzia democratica da parte del mio partito. Quando sente parlare di agibilità politica da parte del Popolo della Libertà da garantire a una persona che è stata votata da milioni di persone, lei accetta questo tipo di locuzione? Ma francamente a me pare discutibile, perché sono molti, se vogliamo discutere in termini quantitativi, sono molti di più quelli che non hanno votato il senatore Berlusconi o il suo partito rispetto a quelli che l'hanno votato. Seconda questione, in realtà lì si parla, non è l'agibilità politica, è l'agibilità parlamentare, perché quella politica, sì, sono tantissimi dirigenti politici che non sono in Parlamento eppure esplicano le loro funzioni in modo assolutamente pieno. E l'agibilità parlamentare dipende da una condanna passata in giudicato, insomma, lì c'è poco da scherzare. E l'agibilità politica invece sarebbe comunque piena anche se il senatore Berlusconi non fosse più in Parlamento. Lei ha detto in un'intervista di recente, il Partito Democratico ha questo aggettivo democratico proprio perché garantisce a tutti il diritto alla difesa. Diritti, certo. Però lei stesso ha detto, ho notato nel Partito Democratico dei rischi di derive di giacobinismo, cioè di voler cercare di eliminare a tutti i costi e in fretta e furia il principale avversario politico. È per questo che è intervenuto, è su questo che forse lei ha ricevuto. Scusi, alcuni dirigenti del Partito Democratico molto autorevoli, alcuni autorevoli esponenti della Giunta, che prima ancora che si ascoltassero le posizioni della difesa del senatore Berlusconi, si erano pronunciati in modo assolutamente netto e tranchant per la decadenza. mi è sembrato dover intervenire dicendo: guardate che quella persona, come qualunque altro parlamentare, ha diritto di difendersi. Poi dopo la giunta ha diritto di decidere liberamente, e il diritto di difendersi non è quello di presentare tre carte, è quello di farsi ascoltare. Cioè, al diritto di difendersi di una persona corrisponde il dovere di ascoltare da parte di chi deve decidere. Però sono molto soddisfatto, devo dire, nonostante, come dire, alcune contestazioni che ho ricevuto, sì, sono molto soddisfatto, perché ormai non c'è nessuno che nel Partito Democratico non dica che effettivamente Silvio Berlusconi ha diritto di difendersi o qualunque altro parlamentare. Questo nulla tocca poi il merito della decisione che verrà presa, naturalmente. Certo, contestazione, gli hanno lanciato anche un po' di acqua, credo, a una... Sì, c'è una signora che si è citato in questo sport col sindaco di Genova e con altre personalità. Intervenuta alla festa l'ha fatto anche con le mani su un guaio, insomma. Ma insomma, questo sì, Barbera sarebbe stato peggio, certo, no? Sì, ma questo, ma lei un pochino l'ha capito la base del PD che si è lamentata, oppure è solo colpa di come i giornali in qualche modo, no, secondo, ma guardi, hanno ancora oggi c'è un giornale molto serio come Sole 24 Ore, sì, che parla di lodo violante, proposta violante. Non c'è stato nessun lodo, nessuna proposta, c'è stato soltanto un'affermazione, se mi permette, banale, che uno ha diritto di difendersi, punto e basta, non ho detto altro che questo. E mi stupisce, come dire, che anche quotidiani e giornalisti di grandissima esperienza, competenza e prestigio, come dire, siano caduti in questi errori. Da quell'intervista è nato il lodo violento, sai che i giornalisti, sì, poi mettono... A parte, guarda, quella parola lì è meglio tirar via dal vocabolario, perché secondo me è una parola infelice per i suoi precedenti. Comunque non ho proposto nessun lodo, non ho avanzato nessuna proposta, nessuna via d'uscita, ho solo detto una cosa nella quale credo moltissimo, avendo fatto il magistrato per alcuni anni e mi sono dibattuto sempre per i diritti delle persone più in difficoltà, che chi si trova davanti in un procedimento di carattere giurisdizionale o giurisdizionale, sì, deve essere in grado di potersi difendere. Presidente Violante, chi decide deve decidere liberamente. Questo sicuramente. Le faccio un'ultima domanda in qualità di saggio, ecco, visto di questi 33 siete rimasti saggio per decreto. Ci può dare una scadenza temporale sul fatto di quando verrà presentate le bozze delle, per esempio sulla famosa legge elettorale, che mi scusi, ma per molti è diventata quasi una farsa ridicola, insomma, da anni se ne parla e non si può poi fare nulla. Ma guardi, il prossimo fine settimana noi chiuderemo il nostro lavoro con un mese di anticipo, perché il decreto del Presidente del Consiglio fissava la consegna del rapporto il 15 ottobre, noi lo finiremo il prossimo fine settimana, quindi con un mese di anticipo, sì, grazie all'eccellente coordinamento del senatore Quagliarello, del ministro Quagliarello e del suo staff, oltre che alla collaborazione di tutti quanti i colleghi, abbiamo lavorato molto bene, quindi finiremo un mese prima. E lì ci sono le proposte da dare al Parlamento? Sì, lì sono le proposte, però naturalmente non posso anticiparle. No, per rispetto nei confronti di tutti. Quanto alla legge elettorale, si parla della legge elettorale la cui discussione è cominciata ieri, comincia oggi alla Camera. Io francamente ritengo che bisogna fare con molta rapidità cose semplici che rispondono a tre criteri. Primo, che i cittadini possano scegliere direttamente i propri parlamentari. Secondo, che sia garantita la parità di genere. Terzo, che sia la legge elettorale favorisca la costruzione di una maggioranza di governo nelle urne. Questi sono i tre obiettivi che bisogna perseguire. Per evitare lo stallo attuale, per esempio, come c'è stata l'ultima elezione. E, confidiamo in questo e confidiamo anche nei tempi. Intanto, Presidente, la ringrazio per essere stato con noi. Sono io che ringrazio. Luciano Violante, ex Presidente della Camera. Stiamo a vedere come finirà ovviamente la vicenda. Anche Berlusconi, oggi alle 20, la giunta è riconvocata e soffiano i venti di crisi di governo. Questo almeno dice, se non ci sarà l'eccezione di costituzionalità, che come ci ha detto il Presidente Violante, è una opzione che potrebbe sollevare la Giunta, e se invece si voterà il PDL sulla decadenza di Berlusconi, il PDL dice allora ci sarà crisi di governo. Voltiamo pagina, come si suol dire, dopo la pubblicità del meteo parleremo di scuola, sono 400 milioni che sono stati trovati per investire nella scuola, molti di questi sono stati trovati grazie a una nuova tassa, le accise sugli alcolici. Parleremo di questo, sarà con noi anche il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza tra pochi minuti. 24 mattino. Siamo qui, eccoci ancora alle 8:32 minuti. Allora vogliamo parlare di scuola, perché ieri è stato varato un decreto, insomma un provvedimento che prevede 400 milioni da investire nel mondo della scuola. Certamente questa è una buona notizia, quando si trovano fondi per investire nella scuola, che è uno degli elementi costitutivi di un paese è solo che una buona notizia. Voglio salutare il ministro all'istruzione Maria Chiara Carrozza, grazie ministro, grazie per essere con noi. Starà qualche minuto, cerchiamo di capire qualcosa di questo provvedimento. Intanto, guardi, oggi Sole 24 Ore, se l'ha già letto, ne parla come un'occasione un pochino persa, perché si dice 400 milioni soprattutto per investire 26.000 insegnanti di sostegno, ma poco agli studenti. Lei per esempio si è molto distinta a Cernobbio a dire mai più 25enni laureati che non abbiano fatto un giorno di lavoro. Come risponde a queste critiche? Ma intanto il provvedimento parte con il diritto allo studio e quasi tutti questi finanziamenti che noi abbiamo ripristinato sono dedicati agli studenti e al costo dell'istruzione. E quindi noi abbiamo riportato 100 milioni con un finanziamento pluriennale consolidato sul diritto allo studio, poi abbiamo destinato 15 milioni al welfare studentesco, abbiamo destinato 15 milioni alla connettività wireless delle aule per fruire anche dei contenuti digitali dei libri che stiamo per lanciare, abbiamo destinato borse di studio agli studenti degli istituti musicali, cosa che non era mai stata fatta prima, e anche agli istituti pareggiati che in questo momento sono a carico degli enti locali, quindi sullo studio della musica siamo intervenuti. Poi ci sono 8 milioni di euro complessivi per l'acquisto con reti di scuole anche di dispositivi digitali per fruire dei libri digitali e per comprare libri di testo incomodato d'uso, e ci sono una serie di provvedimenti per permettere il contenimento del costo dei libri. Poi ci sono 15 milioni di euro sulla lotta alla dispersione scolastica, che è uno dei problemi italiani più gravi. Ci abbiamo il 18% di dispersione scolastica, soprattutto all'età di 13-14 anni, e abbiamo inserito l'orientamento sulle scuole medie anche in collaborazione col Ministero del Lavoro nell'ambito della garanzia giovani. Poi interverremo sull'alternanza scuola-lavoro. Quindi lei dice che questi sono i fondi che sono in realtà destinati proprio ai ragazzi. Sono 6 milioni e 6 sull'orientamento degli studenti che abbiamo portato al penultimo anno e quindi abbiamo anticipato sul quarto anno, e ci sono 13 milioni e 2 più 3 per il potenziamento dell'offerta formativa nelle aree, nelle scuole dove c'è il maggior problema sulle competenze nei test OCSE e PISA, e quindi siamo intervenuti su questo. Poi c'è l'aggiornamento degli insegnanti sulle tecnologie digitali e un finanziamento per le scuole per tenerle aperte il pomeriggio, per poter fare svolgere attività pomeridiane. Mi sembra di capire, quindi, lei ministro risponde alle critiche di chi dice abbiamo solo buttato tutti i soldi per assumere più insegnanti. Ecco, ma quell'espressione che lei ha usato, mai più 25enni laureati, possiamo dire che effettivamente, come diceva per esempio Padoa-Schioppa, sono un po' bamboccioni i nostri ragazzi che escono dalla scuola? Ma io penso che il problema principale sia quello che non c'è la cultura dell'alternanza scuola-lavoro in Italia. Non è una questione né di riforme né di norme, ma è una questione di cambiamento complessivo del nostro modo di vedere la scuola. È per questo che noi siamo intervenuti con un provvedimento che mette lo studente al centro, insistendo sull'orientamento, e abbiamo molti programmi in collaborazione anche col Ministero del Lavoro e con la coesione per intervenire su questo aspetto. Quindi noi vorremmo favorire l'alternanza scuola-lavoro, infatti con il DL Lavoro abbiamo già introdotto i tirocini curriculari all'università. E vorremmo lavorare perché sin dal primo anno gli studenti possano fare stage e tirocini nell'ambito del loro curriculum universitario, cioè devono essere proprio crediti, no? Nel senso che devono far parte del programma. Gli studenti che ho incontrato mi hanno chiesto proprio questo, cioè che queste esperienze in azienda siano parte del proprio curriculum scolastico. Che non vadano a fare le fotocopie, insomma, nelle aziende, peraltro. No, infatti noi poi abbiamo inserito questi tirocini che per esempio il Ministero degli Esteri utilizzerà all'estero per invitare studenti nelle proprie ambasciate, nelle sedi degli istituti italiani di cultura. E noi abbiamo anche fatto in questo provvedimento destinato un finanziamento per progetti didattici con le fondazioni culturali e i musei, siti archeologici, nell'ambito proprio di un programma di potenziamento di questa collaborazione, contaminazione. Quindi insomma non è corretto dire che non ci sono fondi per questo. Ma a questo proposito, ministro, so che dei fondi, come ci ha detto, sono destinati anche all'utilizzo dei libri, per esempio i cosiddetti libri tecnologici. Le chiedo, ma questo perché risponde alla domanda che tante famiglie si chiedono: i libri scolastici costano troppo? Secondo... Non è soltanto la questione del contenimento del prezzo e del costo dell'istruzione dei libri, è proprio anche un avvio di quel processo che porterà poi all'utilizzo definitivo solo dei libri digitali, cioè è una rivoluzione tecnologica di fronte alla scuola che non potrà, come dire, venir meno, essere arrestata. Se però per fare questo, per poter, come dire, applicare l'agenda digitale, noi dovremmo far sì che i nostri studenti italiani abbiano i dispositivi per poter fruire di questi contenuti, perché in alcune scuole ci sono, in altre ci sono state donazioni, ma in molte altre non siamo coperti, per cui abbiamo messo la connettività wireless e questi dispositivi incomodato per d'uso. Potenziare. Senta Ministro, lei stessa ha detto che dei 400 milioni molti verranno raccolti anche grazie alle accise sugli alcolici. Sì. Si può pensare, insomma, che sarebbe migliore un paese in cui si va a prendere i fondi per investire nella scuola riducendo la spesa pubblica. Bisogna mettere una nuova tassa e poi la questione tassare il vizio per finanziare la scuola. Che ne pensa anche dal punto di vista etico di questa vicenda? Allora, da un punto di vista etico, tassare il vizio cosiddetto, cioè, non è di per sé come dire, una cosa negativa. Noi ci arriveremo, perché il ministro Saccomanni ha anche detto molto chiaramente che dobbiamo avviare un processo di revisione della spesa pubblica con task force interministeriali che affrontano questo tema. Infatti, a mio avviso, la stabilità politica deve servire a questo. Per poter affrontare questo tema serve proprio avere intorno non solo consenso ma anche stabilità, perché è un grande tema che nessuno fino ad ora è riuscito ad affrontare con la dovuta attenzione. Non è il taglio lineare che risolve questo problema. Per cui io credo che il ministro Saccomanni abbia ragione, che questo sia il percorso corretto. Da lì libereremo risorse anche per la scuola. E poi penso che sia un discorso complessivo. Il decreto di ieri è uno dei tanti passaggi di un'azione di governo sulla scuola e sull'università che continuerà col libro digitale, con i concorsi universitari, con tanti temi che per ora sono ancora irrisolti e comunque continuerà in collaborazione con il Ministero del Lavoro proprio nell'ambito di quell'alternanza scuola-lavoro che noi vorremmo provare anche con il Ministro di Giulia a implementare certo. In Italia. L'ultima domanda che le faccio è questa, il tema che lei ha ribadito ieri, cioè il bonus maturità che sì. È stato tolto per l'accesso alle facoltà a numero chiuso. Lo aveva già annunciato, quindi è stato fatto. La sensazione, anche oggi Antonio Polito sul Corriere dice, di una scuola che ministro che viene e regole che cambiano, ecco, questo è un po' il problema della scuola italiana da sempre, non crede? Ma io penso che cambino un po' troppo i ministri, nel senso che un governo dovrebbe poter durare l'arco di una legislatura e impostare una politica, così è difficile. Io non credo che sia ministro che viene e regole che cambiano, il senso della continuità sta nel fatto che noi abbiamo provato ad applicare questa valorizzazione del voto dell'esame di Stato, ma che risulta statisticamente inapplicabile proprio perché la valutazione è soggettiva, cioè dipende dalla commissione, quindi introduce delle disparità. Per quanto si possa correggere statisticamente, mi scusi se sono tecnica, attraverso, diciamo, i percentili, comunque sia rimane un'iniquità. Se un 95 al classico vale meno di un 95 a un istituto tecnico, è un problema, perché introduce il fatto vado a quell'istituto piuttosto che a un altro in modo da prendere un voto sì. Più alto. Io vorrei dire che noi siamo contrari come governo a proprio a dare una valorizzazione estrema anche del voto di diploma o di laurea. Non deve essere così, si deve studiare per imparare, se si è studiato bene si faranno bene i test di ammissione, ma non si deve pensare che noi puntiamo al 100 perché il 100 ci dà dei punti in più in un concorso pubblico. Questa è una cosa che io combatterò sempre, perché si deve prendere un voto alto ed è bello averlo sul curriculum, il voto alto dimostra le proprie capacità, insomma, così, però non deve avere un valore legale il voto, ecco, questo è una distorsione che è inaccettabile. Io nel ringraziarla, so che poi ci lascia, poteva stare pochi minuti, nel ringraziarla spero, quando lei dice l'auspicio che duri, insomma, i ministri durino l'intero arco del governo, lei è certa dopo domani di essere ancora ministra dell'istruzione? Sì. Io sì, sono certa. Sta seguendo anche lei quello che sta succedendo. Perché sento che la scuola andare all'università hanno bisogno di me, e quindi anche le critiche che ricevo. No, ma non diciamo, io mi riferivo alle critiche, non mi riferivo sempre... alle critiche, non mi riferivo alle critiche, ma alla vicenda Berlusconi, insomma, che... La vicenda Berlusconi si risolverà. Si risolverà, sì. e quindi rimane, insomma, in questo mi riferivo, è convinta di essere ancora tra 48 ore ministro. Io sono convinta, sì, va bene, intanto la ringrazio ministro per essere stata con noi, Maria Chiara Carrozza, ministra dell'istruzione, università e della ricerca. Ho un elemento che vogliamo approfondire e l'ha ascoltata immagino con attenzione Carlo Stagnaro, che è il direttore di ricerca istituti studio, sì, quella roba lì, insomma, Stagnaro, beh, questo è il classico esordio, direttore ricerca e studi dell'istituto Bruno Leoni, va buongiorno. Bene così, buongiorno, buongiorno Stagnaro, ascoltata con attenzione immagino sulla questione che vogliamo un po' approfondire con lei delle tasse, siamo sempre lì, fare cassa sul vizio per finanziare la scuola, intanto com'è dal punto di vista della filosofia, come la inquadra dal punto di vista della filosofia etica delle tasse? Ma il punto è molto banale, le tasse sul vizio possono essere, come dire, giustificate se questo vizio ha dei costi sociali, nel caso dell'alcol probabilmente è vero, però l'alcol è già tassato, come la benzina è già tassata, come il tabacco è già tassato, come tutto è già tassato, tranne le cose che per pudore ci rifiutiamo di accettare che esistano, come la prostituzione, eccetera, ma questo, come dire, è un discorso che ci porterebbe molto lontano. Mm. Per cui il ruolo, a me non piace la parola etico, ma il ruolo di allineamento dei costi individuali, dei costi privati, dei costi sociali, lo Stato lo sta già ampiamente esercitando attraverso la sua attività di tassazione. Quello che invece accade è che ci sono una serie di beni di consumo, come appunto la benzina, il tabacco, gli alcolici e così via, che hanno una domanda relativamente rigida, cioè chi fuma o chi beve tende a fumare o bere anche se il prezzo aumenta, per cui funzionano molto bene da tasca profonda nella quale pescare quando servono soldi, ma evidentemente questo non ha nulla a che fare con approcci etici, non ha nulla a che fare col vizio e non vizio, è semplicemente la risposta a un'esigenza di cassa delle pubbliche amministrazioni che non riescono a trovare soldi da altre parti. E d'altronde tagliare la spesa non riescono perché non si può riuscire, quindi che cosa si fa? Però è interessante, invece di mettere una tassa normale, anche se attenzione perché oggi il Sole 24 dice che potrebbero aumentare l'imposta di registro anche per trovare questi fondi, è quello che Stagnaro, e da qui riprenderemo tra un attimo dopo il traffico, gli americani chiamano, come ha ricordato il Corriere della Sera pochi giorni fa, soft paternalism, cioè il paternalismo moderato, no? Cioè proprio tassare il vizio, vogliamo trovare i fondi per la scuola, per cose importanti, per cose che contano, e non ci sono in questo momento tagli da fare alla spesa pubblica, così ci raccontano, che si fa? Si mette una tassa su quelle cose che sono, come dire, sconsigliabili, come in questo caso gli alcolici. È interessante il discorso. Eccoci allora, Carlo Stagnaro, lei non si sente un po' soft paternalist, un po' un paternalista moderato a dire carissimo che tu bevi e adesso ti tassiamo un po' di più perché c'è la scuola da finanziare? No, assolutamente, io credo che questo sia, ripeto, non, il paternalismo a mio avviso che è una cosa brutta da tanti punti di vista, però in questo caso è davvero un alibi. Il punto è molto banalmente dove è più facile prendere i soldi, cioè dove sono minori le possibilità di trovare dei sostituti a minore livello di tassazione e lì si vanno a mettere le mani, rischiando poi di creare delle situazioni paradossali, gli aumenti delle accise sul tabacco hanno portato a una crescita del mercato nero, non è impensabile che anche nel caso dell'alcol succeda qualcosa del genere, nel caso del gioco se davvero andremo incontro a inasprimenti della tassazione, il mercato illegale del gioco potrebbe tornare a crescere dopo anni di riduzione consecutiva e così via. E a fronte di questo, a mio avviso, il grave problema, ma voglio dire, lei è uno specialista nel contare le settimane decisive, è l'incapacità di fare cose ovvie che possono essere fatte. Sì, perché ricordiamo, siamo alla finanziamento pubblico ai partiti costa 200 milioni di euro, è metà dell'intervento sulla scuola. Stagnaro, con calma, in autunno, cioè c'è anche questo hashtag su Twitter, in autunno Letta ha promesso che entro l'autunno lo farà, in autunno, e quindi l'autunno è alle porte, il finanziamento pubblico ai partiti, stiamo a vedere. Però ecco, è abbastanza paradossale che il finanziamento pubblico ai partiti, ma come tante altre cose, ne parliamo da un anno, da due anni, da tre anni, da cinque anni, e arriva sempre in autunno l'aumento delle accise sugli alcolici, arriva non abbiamo subito fatto in tempo a parlarne un pomeriggio che è arrivato. No, ma infatti la questione è questa, c'era un mio senso sottile di ironia, forse non si è colto, che in autunno, state tranquilli, il finanziamento pubblico ai partiti non verrà tolto, ma intanto la tassa sugli alcolici o da qualche altra parte è arrivata. Faccio sentire Maurizio che ci chiama dalla provincia di Latina. Maurizio, buongiorno. Pronto? Buongiorno, dica, signor Milan, buongiorno. Dica. Io volevo fare solo una piccola riflessione, fermo restando che ho colto purtroppo la sua ironia. Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, facciamo un ragionamento veloce. Tra comuni, province, regioni, ministeri e scuole, sì, diciamo che stiamo parlando almeno di 30.000 unità, così, con una media di, vogliamo fare 25 computer in uso per ogni unità? Cioè a scopo ufficio, didattico e quant'altro, parliamo di 750.000 computer. Quanto costa mediamente una licenza di Microsoft Office? Vogliamo fare 100 euro? Ok, stiamo parlando di 75 milioni di euro. Bene, lei parlava del fatto che l'accisa viene messa e viene a metà di applicazione. Benissimo. Prendiamo questi 75 milioni di euro che noi paghiamo alla Microsoft, convertiamoli in una licenza di Open Office che è completamente gratuita, che oggi abbiamo risparmiato in 24 ore 75 milioni di euro. Ecco. Allora, come finanziamo noi la scuola? Con le accise su un qualcosa che dovrebbe essere anche combattuto. Cioè, è vergognoso, lo trovo vergognoso. Beh, combattuto è il modo di aumentiamo le accise, così lo combattono, aumenta il prezzo. Maurizio, era ironica anche questa. Okay. Mi affido all'ironia, che devo fare? Stagnaro ha sentito Maurizio con l'Open Office, 75 milioni, ha fatto questi calcoli adesso a spanne, insomma, non è che ero qui a prendere appunti, ma mi fido insomma dei calcoli anche numerici, spannometrici, e via, abbiamo risolto in 24 ore, Maurizio ha risolto in 24 ore come ritrovare 75 milioni di euro. Ma ora, al di là del caso specifico su cui ci fidiamo, io non credo che sia un problema trovare 400 milioni di euro. Per mettere le cose in prospettiva, 400 milioni di euro sono lo 0,05% della spesa pubblica italiana. Alzi la mano chi avrebbe un problema a tagliare le proprie spese personali dello 0,05%. Di fronte a questo, l'apparente insormontabilità dell'ostacolo conduce a un'unica conclusione: non si fa perché non si vuole fare. Non si vuole fare per mille ragioni, buone, cattive, giuste, non giuste, eccetera. Però si abbia il coraggio, la decenza e l'onestà di dire: non rompeteci più le palle, non vogliamo tagliare la spesa pubblica, vogliamo alzare le tasse. Se non vi piace, andate a vivere da un'altra parte. Ma Stagnaro, lei lo capisce quando Saccomanni ha detto non ci sono, ormai le spese sono programmate, questo è il concetto, no? Sono ormai spese messe in bilancio anche nei ministeri, non è che si può intervenire a treno in corsa. Cioè, ha un senso economico, e se ce l'ha lo vuole spiegare ai nostri ascoltatori, cioè il dire ormai sono state fatte delle previsioni, non è che si può arrivare a metà dell'anno a dire te ministero della difesa avevi previsione di spendere tot, no, te ne togliamo tot, perché ormai uno fa i conti con quello che pensava di poter avere. Ha un discorso che ha un senso? Ma ce l'ha ma non ce l'ha. È come se un giovane maturando le dicesse: ma papà, in una settimana non riesco a preparare la maturità. È assolutamente vero che in una settimana non riesci a preparare la maturità, ma teoricamente avresti dovuto prepararla nei 5 anni prima, studiando, o nel mese prima approfondendo quello che dovevi approfondire. Qui la cosa incredibile del dibattito pubblico italiano è che tutto viene vissuto come un'emergenza. Dobbiamo finanziare l'abolizione dell'IMU, di cui abbiamo parlato per 6 mesi, trovando le coperture dal lunedì al mercoledì. È chiaro che è difficile fare tagli, soprattutto tagli pesanti, in tempi molto brevi. Però, santo Dio, sono anni che ne parliamo, diamoci un traguardo di 6 mesi e diciamo i tagli, tra 6 mesi ci dici dove si taglia, però ti impegni a tagliare una cifra tra 10, 20, 30, 40 miliardi di euro. No, ma è chiaro che noi scontiamo una situazione pregressa. Oh, devo dire che il nostro ascoltatore che ha parlato di Open Office, ci sono arrivati tantissimi messaggi al 349-238-6666, per esempio Marta ci scrive, sono una maestra, abbiamo già Open Office nelle scuole, un altro, usiamo già Open Office, questo pazzo cosa scrive? Bravo Stagnaro. Vabbè, insomma, c'è anche un bravo Stagnaro, no? Era una battuta per concludere. Carlo Stagnaro adesso arriva, scrive Libero, stia tranquillo, non il commissario per la spending review, ma forse arriva la task force per la spending review. Siamo sereni. La task force, coi cingolati, ha sentito? Beh, io do un suggerimento alla task force, ora non per fare il populista, ma ogni tanto ci vuole, il Parlamento italiano, Camera e Senato, costa circa 1 miliardo di euro, quello francese 500 milioni. Ecco, basta, la task force, prendete appunti da Carlo Stagnaro, che ringraziamo, il direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Alla prossima, ringrazio Laura Faggin, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Ci seguite ovunque se volete, su Facebook ci trovate così 24 mattino, così ci trovate su Twitter ci sono anch'io se volete seguirmi, Alino Milan, e che dire, vi rinnoviamo l'appuntamento a domani? Sì, alle 6.30, noi siamo qua puntuali su Radio 24, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Ventiquattro mattino.